Ja, oh. Wusch, wusch, wusch. Wusch, wusch, wusch. Andare oggi, so che c'ho quel foglio e non va bene, quel foglio che mi hanno dato, capito? Anche se c'è la fotografia mia, c'è il numero della carta d'identità, cazzo, non si legge quasi una fanculo. E allora? Allora aspetto adesso che arrivi la carta d'identità per posta, cosa cazzo devo fare? Tanto già non sono in fugolo quei soldi. Lo sai il casino che c'era a Pratanita? Più di 160 persone c'erano. Quante? 160. Cato 160, come la mano mi sono andato io. Arrivato a Macco. Io ero 171esimo. E anche la sei uscita alle 2:30. Alle come ho chiuso il circo sono andato direttamente in banca. Cosa vita? Aspetto un po' di giorni, appena arriva per posta la carta d'identità vado e me lo prendo, così almeno non trovo neanche, non trovo manco fila. Ma l'intenzione mia era di andarci lunedì, ma ho detto cazzo, rimango a secco cazzo e la bomba attacca al tram. Ah, quello già è vero. A me mi è arrivata subito dopo che stavo parlando con te al telefono, mi è arrivato il messaggio. E in pratica c'è scritto quelli di gennaio. Di ritirarli adesso gennaio adesso e gli altri a marzo sì, quindi gli altri saranno a marzo. Poi non si sa se continua questa roba, boh, non mi hanno detto niente a me. No, a me mi hanno detto che dice che si presume che no, adesso poi una volta parte l'ECO, parte quella dell'ITIS, la domanda dell'ITIS. La domanda del? Dell'ipisi, quella del chiamatore. Ah, subito dopo questa. Partirà per forza. Se, no, ma non è impossibile, anche perché allora la cosa si divide in due. I 55 anni da una parte e il comune dall'altra. Non può essere così. Cioè, dovrebbe essere per forza così. Non è che paga tutt'uno. È una cosa totalmente diversa, capito? Uno è lo Stato. L'altro è la regione. Sì, ma non mi hai capito. Adesso quelli là di 55 anni stanno già ritirando, sono già arrivate le cartine a casa, capito? Stanno cominciando già a pagare, capito? E dunque hanno già ritirato. Quello là con il portacirco che ha già ritirato i soldi per da lì. Ho capito. Beato voi, cosa vuoi dire io? Ma quello 55 anni perché c'è quella ragazza, mi sembra strano. Sì, quell'uomo che abita di fronte a Nico, no? Un ex fuoco. C'ha quasi 60 anni, dunque. Mi ha fatto vedere anche la cartina, è nera, eh. Ho capito. Meglio così per loro. A me non mi è arrivato niente di quello lì ancora, quindi no, vabbè, non è che sono solo io che ho fatto la domanda, comunque non ho problemi, tanto c'è un sacco di gente per fare il foglio ISE, quindi devo aspettare per forza la carta d'identità. Appena faccio la carta d'identità mi presento il foglio ISE e poi vediamo a vedere come la mettiamo, a vedere se c'ha ragione quella o se c'ha ragione l'altra. Non c'è da nulla, io sono nato in novembre, non ho capito cosa c'entri. In teoria nel 2018 io ho 55 anni giusti, quindi devo rientrarci. Non penso che parta dal giorno che sono nato, no? No. Devi avere compiuti 55 anni per poter fare la domanda. perché c'è scritto bene e chiaro nel Puglio che bisogna avere 55 anni e un paio di mesi e poi fare inoltrare la domanda da, ridotta da, dall'indice, capito? Sì, vabbè, ci vuole poco a novembre, non ci vuole mai, sta tranquilla, quindi no, a novembre prossimo già ci vuole poco, quindi posso anche farla tranquillamente con calma. Però che chi non ha 55 anni cosa fa? Si attacca al tram, mi sembra strano. Quindi io penso che ci sarà sempre il contributo del comune per altri 6 mesi rinnovato. No, no, no. Allora, nella domanda c'è scritto, allora, senti questo, la domanda c'è, bisogna avere qua questo. Avere figli se la inoltrano, a tutti gliela inoltrano la domanda. Già ho capito, ma noi stiamo parlando della nostra vecchia del 2017. Io penso che la rinnovino, perché sennò cosa fanno? Fanno due scaglioni differenti, cosa fai? Tu rimani se... Cioè tu adesso i 6 mesi sono finiti a marzo, dopo marzo cosa fai? Ti attacca al tram, quindi io penso che lo rinnovino, senz'altro, per altri 6 mesi, quindi arriverai giusto al coso. Non penso che lasciano gli altri a bocca asciutta e quelli che hanno 55 anni si ritirano i soldi fino a 18 mesi dell'Inps, no? Appunto perciò adesso quando finiamo i turni di andare in Verzara e informarci per vedere com'è la questione. Secondo com'è la questione si rinnova la domanda e la facciamo. È quello infatti che ti stavo dicendo, secondo me è così, perché se no gli altri rimangono la bocca asciutta, non può essere, quindi hai capito? L'hanno fatto per così, si dividono in scaglioni, ci sono quelli che hanno 55 anni e così il comune ha più soldi, capito? Da stanziare per fino a 45, 50, eccetera, eccetera. E stamattina sei uscito? No, non sono uscito per niente stamattina. Io ero al circolo, adesso è venuto Claudio, adesso non potevi prendere e portarlo qua giù. No, già lo sveglio, già. Il problema è che c'era il telefono col coso, come l'ho toccato ieri sera, cioè, che sono andato a fare la spesa 3 volte per sabato, e ho toccato il pulsantino, si è abbassato il volume della suoneria, capito? Già l'hai visto che io lo metto in tasca e poi si abbassano i pulsanti, quindi devo stare sempre, ogni volta che lo tocco, a controllare a vedere se c'è la suoneria. Perché mi ha telefonato Daniele e poi gli ho telefonato io e sono deve passare fra poco. Per darti i soldi. E io. Vabbè, 200 euro. Esatto, sì. Beh, fai finta che come li abbia già ritirati. Ha già pagato lo gozo la luce, 160 euro, figurati tu. E c'era lui, era tranquillo, ha detto che ha fatto i suoi vinetti, tranquilli. Ha fatto bene. Al limite già ci vado stasera e faccio una passeggiata. Se piove sto a casa, c'avevo un mal di gambe ieri. Come sono uscito 3 volte, sono salito e sceso. Avevo mal di gambe, ieri notte non riuscivo neanche a camminare in casa. Infatti avete detto, se la mattina c'è mal di gambe, manco mi ribesso, invece mi sono stato tranquillo. Sono arrivato alle 7, poi gli ho detto va, tanto c'è freddo, mi metto a guardare il televisore, e infatti così ho fatto. Invece io, com'è, mi è venuto nuovamente quel dolore alla gamba, cazzo, stamattina cominciavo a caricare la birra lì alla Crai, mi è scivolato il carrello, cazzo, ho dovuto cazzo appoggiare il ginocchio in terra, cazzo, ma porca troia adesso, cazzo, ma tutti a me devono succedere. Lo sai che così purtroppo, cosa ci vuoi fare, non ci puoi fare nulla, no? Sperando che non me l'abbia gonfiato, perché ho paura a cazzo che non ci sia il liquido. No, non penso che sia gonfiato, non ti preoccupare, si dovrebbe essere normale. E quante volte me lo sono sbattuto il ginocchio io. E se ho fatto strappi mi sollevando cancelli elettrici. E non ti ho fatto strappi, oh yeah. Poi ti ho detto cazzo, ma sempre senza forza sei tu, cazzo. Adesso non riesci neanche a sollevare neanche i cancelli più. Adesso bisogna essere interessato a fare il cancello, scrivere è così facile, qua c'è lo scorrevole in ferro a sollevarlo a mano in due. Meno in tre o quattro. Ci volevo parlare anch'io più che altro, gli ho detto un sacco di volte, comprati un coso, ho detto, che c'ha le rotelle, che lo infili sotto il cancello elettrico, sotto, prendi e sollevi, come si fa per il coso della macchina, gli ho detto. E almeno sollevi il cancello e lavori bene, detto, poi ci metti un masso sotto e prima togli la ruota, poi passi dall'altra parte e togli l'altra. Non è che ti devi ammazzare, gli ho detto. Giustamente. Oh già, per carità. Adesso mi sdraio 10 minuti. Io mi sto facendo il portatile, che a volte c'è in trasmissione, a volte non esce, non riesco a capire perché, e mi manca l'audio, quindi adesso lo sto controllando quel standard. Deve avere qualche passo a contatto. A meno che non ci sia, ci vogliano 6 volt, 7 volt, non lo so. Adesso vediamo un po', voglio capire perché fa così. Perché su questa frequenza ci arriva benissimo, ho capito. L'importata è perfetto. Si sente bene, mi dà la portata ma non mi dà l'audio. Io ti devo portare quando al limite, quando c'è tempo. Vieni e ti prendi, ti porto quel microfono. Non ho capito nulla. Faccio una rivetta. Cazzo che io 50 euro non gliele do quel microfono, oh, non ce li vale. Devi sollevare. Ah? Cos'è che hai detto? Non ti ho capito cosa hai detto tu poco fa. Devi sollevare. Ho detto che quel microfono che mi ha dato quella persona lì non ce li vale 50 euro. Hai capito? Io l'ho provato nel baracchino mio, non è che pompi così tanto, la verità. Infatti ti ho fatto le commutazioni, ho detto provalo tu, appena ci abbiamo 5 minuti liberi, se Claudio viene a lasciare la mano, buttiamo giù l'antenna, facciamo i fuori con i tasselli chimici e dopodiché ci rimettiamo nuovo su con l'antenna per la V e la U. Capito? Però bisogna essere in tre, perché io non è che mai sono parecchio tempo che non sollevo pari, quindi capace me ne va rendendo. Appunto perciò. No, quando te lo salgo, quando passi al circolo, te lo metto dentro una busta e te lo porti là e glielo ritorniamo. Tanto per 50, per 40, 44 euro mi prendo, preferisco prendermi l'altro, quello, il microfono di Fusaro, 40 euro me lo sta dando. Il MB4 costa 40 euro, sì. Costa di meno e c'è anche bene. Si è andata benissimo con quel col 3009. Appunto perciò adesso lo smonto e lo metto dentro una busta, poi domani o dopodomani te lo salgo e glielo dai e glielo ritorni. Sì, basta che lo lascia a Cosumi, tanto domani devo salire, devo andare, devo scendere per forza tuo fratello. Lascialo lì al circolo. Ora tuo fratello, non so come vuoi tu. Sì, vabbè, domani lo salgo. Te lo metto dentro la busta e io lo ritorno. Ok, non c'è problema per quello. Vabbè dai. Ok dai, ci sentiamo più tardi, dai, che adesso mi riposo un po'. E io ci sentiamo dopo, dai. Ciao. Avanti, chi è che sta sempre mettendo portante in TMR? E se mi pare mancante nei bari. Ma chi è questo imbecille che mette sempre la portante nel TMR? Cacchetto gufo! Thank you. che è? Chiamari! Tu sei a conosciamo il dittor Buh? Chiamari! Oi tu, buonasera! Tutte segnate frisciute, no? Niente frittelle ancora, per caso come vuoi te graziano? Ah, è graziato, non c'è ancora niente, ma sì. Ha fatto un carro come il suo capello, le mani. Sì, la salvo va. Là, il baracchino fa sempre quel rumore di alternata, brunoso. Oh, rumore alternata. Come mai? Prova a vedere. Beh, senti. L'hai sentito? No, io l'ho sento l'alternata, oh. Riprova. Oh. No, lo sento lui. Cavolo, non senti il rumore. Aspetta, guarda, te lo mando in diretta. Ah, sì, adesso l'ho sentito. Però sarà l'alimentatore, no? Ho provato, già a 4. Questo qua è quello del computer. Quello c'è qua a casa che usa quel baracchino. E la scusa non è l'alimentatore. Questo anche se ha 2 ampere, 3 ampere, non lo so. Forse 4, 5. Lo fa lo stesso. Non è un problema di baracchino, Poi quando tocco lo schiotto del microfono, fa lo stesso alternata. Perché non si ammassa allora. E quello che mi ha fatto io, anche quello fa rosio. Sì, lo fa anche con quello. Sì. Infatti quello lì l'ho lasciato a casa, praticamente l'ho tutto modificato, Gio Mario, gli ho aggiunto in più il tastino della ventola, lo posso attivare e disattivare. E poi gli ho cambiato il capo, come te avevo detto, gli avevo messo più grosso. E si è a posto. A me non me lo faceva. Come mai, già l'hai sentito? No, ma non c'entra niente l'alimentatore, Gio, non lo so, il baracchino secondo me. E adesso vediamo, dai. Faccio un giro su internet lì, io voglio l'Alan, tipo anche 68, anche l'altro, quello più piccolo, quello c'ha lo Smith, che c'ha lo Squelch, capito, quello lì, uno di quelli. E andava bene, funzionano bene quelli, io ce l'ho a casa uno di quelli, ma purtroppo da mezzo watt, so perché, ha dei problemi. È una seconda mano, gatta, l'ho visto sui bighi, lasciati là, l'ho visto sui bighi. Prova a guardare sui B e magari lo trovi anche a buon prezzo anche. Sì, ma infatti farò giù sui B se c'è qualche baracchinetto tipo 48 68, va bene lo stesso. Se lo trovo lo compro. Lascia, faccio un giro, do un'occhiata a vedere. Dai un'occhiata, dai, eventualmente la guardo anch'io. Ok, siamo ai 27 col Tore o no? Già avevo sentito, ma fa alternata quel baracchino, Giovanni. Allora chi sa di baracchino, Lì non c'è massa allora, lui. Senza massa quell'apparecchio. Sicuramente, non ha massa, è vero. Ok, ci sentiamo dopo allora, lui. Sì, fai Giovanni, tanto tra un po' sto uscendo, dai, che è compleanno di mamma. Vado a casa a fargli gli auguri. Portagli il regalino, dai. Ehi, fagli con la parte vostra. Ehi, grazie Giovanni. Oh lui. Ehi Giovanni. E la moglie sta dicendo quanti anni ha tua madre? Mamma ne ha 72, del 46. Ah, sì, è minore di mia moglie. Mia moglie del 42. Sì, vabbè, poveraccia, mia mamma ha avuto un po' di problemi di salute, Giovanni. Se è viva, è viva per miracolo. Sì, ognuno ha avuto la sua, per carità. Va bene, l'importante è tirare avanti, rattoppando e tirando avanti piano piano. Finché la barca va a bidare da strada, quando non anda, cosa può fare? Non si può fare niente. Per cui bisogna avere un giro. Sì, ma infatti, oggi ci siamo noi. È come se dico, oggi siete voi, oggi ci siamo noi, domani ci sono altri. Proprio un giro, giro. Quando c'erano nel 1890 c'erano quelli che c'erano, noi non ce l'avamo. Adesso ci siamo noi, poi domani non ci siamo noi, ci siamo noi. E continua ad andare, la vita va sempre avanti. Purtroppo indietro non può tornare. Assolutamente no. Ok, d'accordo. Ci sentiamo, ciao. Ciao Giovanni, saluto la tua moglie, ciao. Grazie. Chi è? Tu voglia. Ti concade. Ti concade. Ti concada. Cava. Comunque Giovanni, se ne ascolto, tutti cari sono questi apparecchi. Troppo cari. Poi ce n'è uno che lo dà 70 euro ma è un forruveccio. Sono baracchini in giro, se le vuoi Luca. Ah, 50 euro ne ho visto uno da corso. Da napoletano. Ma bisogna vedere come ti è, se purtumare, se purtumare, non lo sappiamo, no? Non ho capito nulla, no, ti sei arrivato un bel basso. Ho detto, bisogna vedere se è messo bene o è messo male. Lì compri la scatola chiusa. Ah, già funzionano perché li ho visti. Sono uno in Polman e vada, l'altro era un Midland, modello vecchio. Ne voleva 50 euro con l'esaurito di del napoletano. Gli ho fatto vedere il Boffen, gli ho detto io, gli ho detto gli pago 25 euro l'uno, gli ho detto, ma lei sta scherzando, ho detto che quello, ho detto, c'è 50 euro se li vale. E Massimo ha detto se vale 25-30 euro l'apparecchio, ha detto se là, ha detto se me lo dà così è bene, se no ha detto se lo tenga. C'è questo baracchino radio camper CB27 Albrecht AE 6100 AM FM omologato 40 canali 70 euro nuovo. Sì, io ci avevo portati, ne avevo regalato, figurati. 40 canali AM FM, bello nero. Portatile. Sì, portatile 5 watt d'uscita, AM FM, 40 canali. L'ho regalato a fratello di Giuseppe. C'era, gli ho detto mettetelo in barca. Tanto ho detto io non me faccio niente le portatile 27. Poi l'altro avevo regalato a cosa? A quello che. Un Handy come 50S era. A Gavino, quello che c'ha il laboratorio qua vicino. Stavo vendendo un Elbex 80 canali, radio CB, baracchino 799 euro. Che cos'è Marco Gisbo? Cazzo, ci sono i 3.900 che costano, li trovi quanto ne vuoi a 100 euro. Ma infatti, allora, baracchino di CB, 1100 più alimentatore più lineare, più microfono 30G, per il PC, questo qua vuole microfono, da tavolo, lineare, baracchino, alimentatore, 229 euro. Sì, quel pezzo non è molto, bisogna vedere che lineare è. Facciamo il vostro lineare, no. Cos'è un tassistorizzato come lineare? Non si vede in foto. Ho capito. Se secondo com'è già ti mi sembra che sta parlando uno Gianni Nurra di baracchino, se non mi sbaglio. L'ho visto l'altro giorno su Facebook. Ho visto la foto col baracchino, questa. Forse stava vendendo, non lo so. Ce l'ho io uguale a casa. Ah, FM, baracchino Intec FM 680. Baracchino FM 680? Sì, della Intec. FM 680. Ah, ho capito qual è, sì. Non c'avevi un coso, un 34 canali tu mi pare, della Intec. Quelli a 25 euro trovi quanti ne vuoi, mi. No, io a casa c'ho un 34 canali, quello lì è il Midland, mi dà un watt. Poi un giorno l'ho smontato, non sapevo cosa va. Ho staccato tutti i fili dal quarto, quello dove ti segna i canali. Perciò i canali non me li segna più bene. E poi da mezzo watt, non so, si era bruciato. Ah, ho capito. E ha trovato tutti quelli che avevo venduto io, non mi ricordo manco chi li avevo dati adesso, se no magari gli avevi telefonato e te l'avessi preso 25 euro. Li ha modificati l'Intec 340S, avevano 40 canali sotto, 40 canali normali, 40 canali sotto. Ho capito, mi ha scoperto una super tasse, cioè, CP, super tasse, come si chiama? 3.900. Guarda, un 3.900 con 4.000 se riesci a buscartelo. Io ho capito, sono buoni, sono uguali. L'unica cosa è che con 4.000 c'ha l'eco e basta in più. Però sono precisi e identici dentro. Tu costa un patrimonio. Costa 183 euro nuovo. Nuovo? Ma secondo me voglio trovi anche intorno ai 70 euro. Li trovi. Poi c'è qua il Galaxy SS 3009, Black AM FM CW SSB LSB più microfono. Questo vuole 83 euro più 12 di spese. Quello già va bene, vedi, quell'apparecchio là. L'83 va bene, se c'ha le bande laterali si è a posto. No, se non ero già, anche le bande. Allora, c'è A, A, B, C, D. No. A, A, B. Qua c'ha 1, 2. Non si capisce cosa sia. A, B, C, tre bande. Già è così, allora, è come il 3009, in pratica c'è scritto DA da una parte, al centro c'è scritto EB e poi dal lato fianco c'è scritto FC. Poi c'è CB ANCN, Superstar 120, FM, Fonction, vabbè questo è in inglese, in francese, 100 euro. 110 euro, solo ricambi per scritto. Ti conviene quello da 84 euro, scriveli, chiamalo e te lo prendi al volo quell'apparecchio là, che ha 200 canali, è come il 3009, è preciso. No, ma a me basta anche un 68 se lo trovo a pochi soldi. Ma se c'hai 200 canali non è meglio di averne per 80 euro, cosa vuoi di più, scusa? Se li vale, non è che non se li vale con 80 euro. Con che stai parlando tu? Con Luca, ciao Giulio. Ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, ci sentiamo. Ciao Giulio. Io forse sono più 27, su 23. Io di cosa ne ho, il Connect 4000 e il 3009, e già è banale il mio, c'ha una ventina d'anni, più vecchio del Kenwood, però è nuovo nuovo. Ed è anche omologato. Non ho capito, cosa hai detto? Capito mi hai? Non l'ho capito. Ho detto io come apparati, ho il 3009 con la maschinina del Tornado 34S e l'omologazione del 34S dietro, poi è nuovo nuovo. E c'ha gli anni più del Kenwood ne ha. Perché ho comprato prima del Kenwood, figurati tu. E poi c'è il Connex 4000 che mi ha regalato Marco e gli ho messo la maschinina del 3009. No, ho capito, ma io c'ho sempre quello mio famoso, mica quello non l'ho mai venduto, e ma lo venderò. Mi 68, 60, 80 euro Genova, mi sembra nuovo. Ma se c'è quello grande, cosa di una volta comprate un altro, me lo spieghi, boh. Te lo piace, lo togli da casa tua, dalla casa di tua madre te lo porti lì dove sei. Sì, adesso mi smonta, ma sapete. Posso stare smonta. Dalle smonta. Allora pigliate un nuovo, cosa vuoi ti dica io? A un certo punto io per non spendere i soldi avrei preso, tanto sei sempre a casa di tuo suocero, quindi a un certo punto. No, cosa è la mia ragazza, non so di tuo suocero. E vabbè, la tua ragazza, volevo dire quello, ma. Qua c'è un bracchino, un 48, sembra nuovo. Sì, qua c'è nuovo. 110 euro. Se non ti prendi un FM 500S, solo che prende colpi. Il discorso è quello. Prende splatter. Sì, adesso se trovo qualche affare. Ma ci voglio spendere tanti soldi, tanto. Poi smontare il mio non fa. Perché mi devo portare anche l'alimentatore, non fa, devo buttare a casa, sa, no. Quello là rimane lì, quando sono a casa me lo uso a casa, quando sono qua mi uso un altro. Qui sta sempre trasportando il baracchino. Insomma fa così, te ne prendi uno di quelli pochi soldi e ciccia, e te lo metti lì. Ti metti un antennino di macchina, non so, o una magnetica. Vabbè dai che chiudo che devo uscire, dai che devo fare delle commissioni, alla prossima. Sì, ciao Luca, ci sentiamo alla prossima. Chi è che sta provando? Vabbè, allora devo la mano, non andare. Non